720. Budino di pane e cioccolata. È un budino da famiglia. Non vi aspettate quindi di sentire cosa squisita. Pane comune fine, grammi 100, zucchero grammi 70, cioccolata grammi 40, burro grammi 20, latte decilitri 4, uova numero 3. Versate il latte bollente sopra il pane tagliato a fette sottili. Dopo 2 ore circa di infusione, passatelo dall'ostaccio per renderlo tutto unito. Poi mettetelo al fuoco con lo zucchero, il burro e la cioccolata grattata. Rimestate il composto spesso, fatelo bollire alquanto e lasciatelo ghiacciare. Aggiungete allora le uova, mettendo prima i rossi e quindi le chiare montate, cuocete alla bagnomaria in uno stampo liscio, unto col burro e servitelo freddo. Per dargli più bell'aspetto, non sarebbe male di coprirlo, dopo sformato, con una crema. Questa dose potrà bastare per 5 persone.